Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e sette minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni, e come ricordavano anche i nostri GR, oggi trasmettiamo da Parma e quindi dal Vinitaly di Verona di ieri a Parma, dove si è aperta 2 giorni di lavori della Confindustria, organizzata dal Centro Studi Confindustria, e di questo parleremo in apertura, anche perché proprio il rapporto presentato dal capo dell'Ufficio Studi di Confindustria, Luca Paolazzi, è al centro oggi degli interventi che poi anche si sono susseguiti. Chiuderà la giornata di lavori oggi il ministro Tremonti, il suo intervento è previsto verso le 18.30-19, ma tutti i lavori sono leggermente in ritardo. Dicevo della relazione del Centro Studi Confindustria, che ha segnalato come elemento forse più forte di una relazione molto articolata e lunga come stia aumentando il divario del PIL pro capite degli italiani rispetto al resto dell'Unione Europea. Le agenzie hanno titolato italiani sempre più poveri, secondo le stime di Confindustria. In realtà, quello che è la stima della Confindustria è che nel 2014, quindi fra 4 anni, il nostro PIL pro capite, cioè quanto ognuno di noi produce come PIL, sarà del 10% inferiore alla media europea. Nel 91 eravamo a quota 106, fatto 100 la media europea, siamo scesi da allora fino a 95 punti, quindi 5% in meno della media europea, e nel 2014 saremo a 90, come prevede anche la stima del Fondo Monetario Internazionale. E quindi un'Italia che a livello, diciamo, di PIL pro capite continua a perdere posizioni e a impoverirsi, a aumentare il divario con il resto d'Europa. E poi le riforme, anche oggi numerosi interventi e richieste delle riforme. Ha appena concluso il suo intervento il segretario del PD Pierluigi Bersani, ascolteremo alcuni dei passaggi più significativi. Poi vi sarà anche l'intervento del segretario del CGIL Epifani, del numero uno del gruppo Piaggio Colaninno, ma anche del numero uno del gruppo Fiat, mi riferisco a Sergio Marchionne. Domani, e così concludiamo questa introduzione, domani invece i lavori vedranno la presenza, oltre che del Presidente Confindustria Marcegaglia, che concluderà la giornata di lavori, anche del Presidente del Consiglio Berlusconi. 349-238-6666 per i vostri sms. Il Presidente del Consiglio Berlusconi oggi era in Francia per firmare un totale di 20 accordi bilaterali con il Premier francese Sarkozy, a partire da quello che riguarda il nucleare, quindi coinvolgimento anche di Ansaldo, del gruppo Ansaldo, ma non solo, e avremo alcuni passaggi anche delle dichiarazioni di carattere economico, chiaramente non quelle che relative alle riforme fatte da Berlusconi proprio nell'incontro bilaterale con Sarkozy in Francia. Poi la vicenda greca. Allora, i mercati restano positivi, più 1%, anche se sotto i massimi di giornata, perché poco fa l'agenzia di rating Fitch, una delle tre agenzie che a livello mondiale danno i voti al debito degli stati sovrani, oltre che ai debiti delle singole società, ha abbassato di nuovo il voto alla Grecia e lo ha portato a BB-, con un ulteriore outlook negativo, cioè con un'ulteriore previsione negativa per il futuro, da BB a BB-. L'euro ne ha risentito subito dopo il taglio del voto alla Grecia, è sceso di nuovo a quota 1,34, anche nei confronti del franco svizzero siamo 1,43,8. È probabile, come avete letto anche sui giornali, che si debba riunire di nuovo l'Europa e quindi i vertici dei vari paesi europei per ridiscutere la crisi greca, che evidentemente non riesce a trovare una sua soluzione. Oggi, tra l'altro, Goldman Sachs, la banca d'affari americana, in un rapporto confidenziale che però è trapelato, ha ipotizzato che la Grecia potrebbe annunciare un ricorso all'aiuto europeo, bilaterale e del Fondo Monetario Internazionale entro aprile. Anche di questo parleremo. Infine, per quello che riguarda poi gli altri temi della giornata, come sempre, in apertura del programma, le notizie in breve. Parliamo Partiamo dal petrolio, come sempre, $85,90, in leggero rialzo oggi più 0,9%, però insomma questo è il livello su cui si muove l'oro nero. Ancora rialzi invece per la benzina a 1,439 la Shell, ritocchi anche per, chiaramente a rialzo, per ERG, Esso e Kuwait. Per quello che riguarda le compagniere, visto che ieri all'Italia, secondo i dati della EA, che è l'associazione delle compagniere europee, è arrivata al primo posto per puntualità nel mese di gennaio, dell'84,3% il tasso di puntualità, al primo posto appunto fra le 22 compagnie europee, i peggiori Lufthansa e la Svizzera Swiss, che fa sempre parte del gruppo Lufthansa. Oggi il presidente di Alitalia, Roberto Colaninno, qui a Parma, ha detto: il fatto che noi ci sia primi in classifica ci permette a questo punto di chiedere pari dignità e di poter sedere con pari dignità ai tavoli in cui tutti si siederanno. Il Wall Street Journal continua, come il New York Times, la sua polemica con le banche americane. Perché? Perché oggi ha scritto che le maggiori banche d'affari americane hanno mascherato i propri livelli di rischio negli ultimi 5 trimestri, riducendo temporaneamente il loro debito prima di comunicare pubblicamente i risultati. Un'accusa pesante che esce dall'analisi dei dati della Federal Reserve, e fra le 18 banche che avrebbero fatto ricorso a questa pratica di abbellire i conti, mascherare i livelli di rischio, ci sono tutti i nomi della finanza americana, quindi Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America e Citigroup. Giustamente volete sapere al 349-238-6666 come va il differenziale tra quanto rende un'obbligazione tedesca e quanto rende un'obbligazione greca, perché in questo modo più è alta la differenza, più rendono le obbligazioni greche rispetto a quelle tedesche, più alto il rischio paese. Oggi il differenziale si è leggermente ridotto. L'obbligazione a 10 anni è al 7,28% dopo essere salita al 7,4% di ieri. Lo spread, la differenza, è così scesa al 4,13% contro il 4,27% di ieri. Ma ripeto, anche chi ce lo chiede, l'Europa continua a dichiararsi pronta a intervenire anche con il Fondo Monetario. Il presidente dell'Unione Europea Van Rompuy lo ha appena ricordato circa un'ora fa in un comunicato, e si fa il conto di quanto costerebbe alla Germania un eventuale fallimento greco, un default greco: 5 miliardi e mezzo di euro, secondo una stima circolata tra Francoforte e Berlino. Questo però nel caso peggiore di un'insolvenza totale della Grecia sul modello argentino. Se la Grecia comunque non ottenesse più credito dal mercato, entro fine anno l'Unione Europea e il Fondo Monetario dovrebbero ripianare debiti vecchi e nuovi per circa 30 miliardi di euro. Un intervento possibile del Fondo Monetario viene stimato in circa 10 miliardi di euro, e poi gli europei resterebbero sulle spalle, sul groppone, altri 20 miliardi di euro, di cui 5 e mezzo alla Germania. E di Grecia ha parlato oggi anche il presidente del Consiglio Berlusconi al termine del vertice italo-francese. Ha detto che è un dovere dare un supporto alla nazione greca. Abbiamo trattato di un tema, quello dell'aiuto e del sostegno alla Grecia, e ci siamo trovati assolutamente d'accordo del fatto che, essendo la Grecia un paese dell'euro, noi abbiamo il dovere di dare un supporto, ma abbiamo anche l'interesse di dare un supporto, perché sennò avremmo delle conseguenze molto negative sulla nostra moneta comune e sulla nostra economia. E poi la manovra correttiva, anche qui vedo molti messaggi. Ieri c'era già stata una smentita da parte del ministro dell'economia Giulio Tremonti per quello che riguarda l'ipotesi di una manovra correttiva da 4-5 miliardi. E oggi è tornato sul tema anche il Presidente del Consiglio, ha detto: smentisco, come già fatto ieri dal Ministro, ogni manovra correttiva. Sono voci che ho letto oggi sui giornali, e comunque dalla crisi l'Italia sta uscendo bene. Stiamo uscendo da questa crisi generale bene, come sistema bancario francese. Il nostro sistema bancario si è rivelato molto solido, non c'è stato nessun aiuto da parte del governo che si è reso necessario. Le cifre che ci eravamo dati sono state, per quanto riguarda deficit e debito, sono rispettate. Oggi sui giornali italiani ci sono delle voci che riguardano la necessità di un aggiustamento della finanziaria in corso prima della prossima finanziaria. Devo smentire recisamente questa notizia, che avevo già smentito con forza 2 giorni fa e che è stata smentita ieri anche dal nostro Ministro delle Finanze. Ancora per quello che riguarda il vertice Italia-Francia, ne parleremo più avanti. Comunque c'è un accordo Enel, EDF, Ansaldo Energia, praticamente l'accordo che definisce le aree di potenziale cooperazione nello sviluppo e nella costruzione di almeno 4 reattori nucleari con tecnologia EPR sul territorio italiano. Un accordo, e lo diciamo senza voler esprimere nessun giudizio, che è propedeutico poi alla partenza dell'energia nucleare. Da Verona invece, oggi il Presidente della Repubblica Napolitano ha chiesto, in tema di riforme, Napolitano era in visita, come avete sentito anche durante la diretta di Deborah Rosciani, in visita al Vinitaly, ma ha chiesto, diciamo, che si esca il più presto da anticipazioni o approssimazioni che non si sa quali sbocchi concreti e a quali proposte possono condurre, sempre in tema di riforme e anche di riforme economiche. È augurabile che si esca al più presto da anticipazioni e approssimazioni di cui non si sa a quali sbocchi concreti, a quali proposte impegnative, a quali confronti costruttivi possano condurre. Ci sono punti importanti di riforma già da tempo apparsi largamente condivisi, addirittura già sul finire della precedente legislatura, in sede di Commissione Affari Costituzionali della Camera. Sarebbe realistico e saggio, a mio avviso, non mettere a rischio e non tenere in sospeso quelle convergenze, ma mirare a tradurle in tempi ragionevoli in dei corposi, consistenti risultati. Appunto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Questa era l'ultima delle nostre notizie in breve, ripeto, sui temi del nucleare e anche sulla borsa torneremo più avanti, come sempre nel resto degli appuntamenti. Partiamo adesso dal primo tema di apertura, che riguarda il rapporto di Confindustria commissionato anche all'Istituto Bruno Leoni, libertà e benessere, l'Italia del futuro. Eh sì, perché se questa mattina dalle colonne del Financial Times la Presidente Confindustria, Emma Marcegaglia, ha detto, continueremo a dirlo chiaramente, adesso i prossimi 3 anni senza elezioni devono essere impiegati per fare le riforme a partire da fisco, pubblica amministrazione, ricerca e sviluppo e anche il mercato del lavoro, non ci sono più scuse per non farlo, quello che serve è evidente sia al governo che all'opposizione, altrimenti l'economia del paese è destinata al declino. Questo, diciamo, l'appello, l'invito lanciato dalla Presidente degli Industriali Emma Marcegaglia, ricordavo, nel giorno in cui il rapporto del Centro di Confindustria segnala un calo continuo e che andrà avanti nei prossimi anni del PIL pro capite, cioè quanto noi produciamo come ogni singolo individuo, si divide il PIL per numero di abitanti, non è un calcolo così difficile. Eravamo sopra la media europea nel 91, a quota 106 con una media europea che era di 100, siamo scesi lungo tutti questi anni, già nel 2009 eravamo scesi a quota 95 e la previsione del Studio Confindustria è di arrivare a quota 90 nel 2014, quindi un 10% sotto come PIL pro capite la media europea. Su questo e su altri temi contenuti nel rapporto del Centro Studio Confindustria abbiamo preparato una scheda, poi sentiremo le varie reazioni e commenti. 349-238-6666 per i vostri sms. Capace di muoversi meglio di altri nell'emergenza, con il profilarsi della ripresa il nostro paese rischia di ritrovare una normalità che, al contrario, lo vede da tempo faticare a tenere il passo dei migliori. Nei 4 anni che hanno preceduto la crisi, l'economia italiana è cresciuta 8 punti in meno della media europea e negli ultimi 12 anni il valore aggiunto della nostra produzione è aumentato di un modesto 6%, in Germania o Francia quasi 10 volte tanto. Soprattutto, fabbricare qualcosa in Italia costa sempre di più. Dall'introduzione dell'euro, il cosiddetto CUP, ossia il costo per unità prodotto, è aumentato di ben il 25%, mentre negli altri paesi è rimasto costante, se non diminuito. Le ragioni sono molteplici: costi dell'energia, peso del fisco, carenze infrastrutturali e dunque costi logistici più alti, utilizzo delle attrezzature poco efficiente e un costo del lavoro alto per tasse e contributi, senza che le buste paga ne abbiano benefici. L'aliquota fiscale che grava sulle imprese italiane è del 33%, contro una media europea del 23%. La tassazione più alta sulle persone fisiche arriva al 43%, a fronte di un dato medio poco al di sotto del 36%. Inoltre, per pagare le imposte servono 360 ore, nel resto d'Europa 250. Ridondanza ed eccesso di regole, bassa certezza del diritto, fanno infine dell'Italia il paese meno libero d'Europa da un punto di vista economico. Ora più che mai, dunque, servono riforme, dalle liberalizzazioni a un fisco più equilibrato, che aiutino le imprese ad agganciare la ripresa. In tal senso si è espresso recentemente anche il Fondo Monetario Internazionale. Ribadendo l'indispensabilità delle riforme, l'FMI ha riconosciuto le doti di flessibilità del nostro sistema produttivo e ha dato atto al governo di aver fronteggiato correttamente la crisi, ma contemporaneamente ha abbassato allo 0,8% le stime di crescita per il 2010. Come a dire, bene, ma ancora non basta. Questi i temi principali, chiaramente in sintesi, emersi dal rapporto oggi presentato, un rapporto molto articolato in cui per esempio viene anche sottolineato l'incredibile storia italiana di aumento di quello che è la ricchezza del paese. Pensate che in 150 anni di storia del paese, visto che festeggiamo i 150 anni dell'Unità d'Italia, il PIL pro capite è aumentato di 8 volte, cioè a prezzi costanti, un dato che spesso non ricordiamo, ma insomma a prezzi costanti rispetto al 1900, e quindi come se non vi fosse inflazione, quindi a valori reali, il PIL pro capite era di 2.000 euro nel 1900, adesso è di quasi 20.000 euro, siamo a 18.000 euro, per cui a parte un piccolo calo durante la Seconda Guerra Mondiale, insomma la ricchezza del paese, ripeto, a prezzi costanti vuol dire che a inizio secolo, a inizio Novecento, si guadagnava come singola persona, come PIL di ogni singola persona, un ottavo almeno di quanto non si guadagna, non si produca adesso. Le soluzioni però identificate anche dal direttore del Centro Studi di Confindustria per uscire da questo continuo calo della produzione di PIL a livello pro capite si chiamano riforme. Ora, sotto il tema di riforme spesso si nasconde un po' di tutto, ma Luca Palazzi ha evidenziato soprattutto quanto servano rimuovere gli ostacoli alla concorrenza. La maggiore competizione fra i produttori abbassa i prezzi e aumenta la qualità dei beni. C'è un caso su tutti, che è quello della telefonia, e perché lo riferisco? Perché nel mondo della telefonia, praticamente da quando sono entrati più operatori e il mercato è stato completamente liberalizzato, insomma, praticamente i prezzi sono crollati. Da un valore di 100 nel 96 siamo scesi adesso a un valore di 65 come prezzi, grazie alla concorrenza. Comunque, gli spunti principali Luca Palazzi li ha ricordati al microfono della nostra Anna Marino. Anzitutto la concorrenza. 2/3 degli italiani chiedono più concorrenza. Ne hanno percepito i benefici in settori chiave della loro vita quotidiana, come i telefoni, ma anche le automobili. Il calo del peso dei produttori nazionali ha portato a una riduzione di 1/3 dei prezzi in entrambi i settori, un aumento della qualità e dei servizi. La seconda ambito è una riforma che portino a premiare il merito. Il 70% degli italiani dice che va riconosciuto di più a chi fa meglio, e inoltre ritiene che fondamentalmente per avere successo nella propria vita occorre essere istruiti, occorre impegnarsi nel lavoro, occorre frequentare buone scuole, buone università. Poi ci sono, diciamo così, alcune riforme che rafforzano la legalità. Gli italiani sono stufi di pagare tante tasse, e soprattutto sapere che c'è invece chi ne paga troppe poche. Quindi vorrebbero poter vedere alleggerito il proprio personale carico di fiscale attraverso una lotta all'evasione fiscale. Quasi il 90% degli italiani ritiene che l'evasione fiscale non sia mai giustificata, non è né necessaria né giustificata. Infine, le riforme, queste però sono quelle chieste dalle imprese, riguardano anzitutto la semplificazione burocratica, in secondo luogo il potenziamento delle infrastrutture e poi la riduzione del costo dell'energia, perché da noi le imprese pagano moltissimo l'energia, e infine la riduzione del carico fiscale. Le imprese che cosa possono fare dal canto loro? E ovviamente questo non è sufficiente, ma qual è il polso che avete dal punto di vista proprio delle azioni che vogliono intraprendere le imprese per superare la crisi? Le imprese puntano a innovare fondamentalmente, sia nei prodotti sia nei processi, puntano anche a nuove azioni commerciali, a nuovi mercati, puntano a inserire nuovi manager, puntano a aggregarsi, si stanno sforzando di uscire dalla crisi in vari modi, sono strategie ad ampio raggio. Gli indici misurano il polso della situazione, misurano ovviamente come adesso la situazione italiana, sono ancora validi per capire, perché un giorno si parla di crisi, l'altro giorno di ripresa, sono ancora validi per capire qual è la situazione reale adesso? Non c'è contraddizione tra parlare di ripresa e parlare di crisi. Quando hai perso il 6,3% del PIL e recuperi l'1%, c'è ripresa, ma sei ancora dentro la crisi, anche perché questo 6,3% non è spalmato in modo uniforme fra tutti i settori, fra tutte le imprese, c'è chi ha perso il 50% del fatturato. Così Luca Paolazzi al microfono della nostra Anna Marino, sottolineare le riforme. Dico subito a chi scrive al 349-238-6666 che, se conoscete questo programma, noi da sempre abbiamo difeso le liberalizzazioni, le riforme, piaccia o non piaccia, che portano più concorrenza, che sicuramente vanno a intaccare alcuni ordini professionali, alcune caste, come le chiamano alcuni di voi, ma che portano benefici al cittadino consumatore. E ripeto, il caso della telefonia è emblematico, altrettanto non si può dire per esempio del prezzo della bolletta energetica, né della concorrenza inesistente per quello che riguarda la benzina e i carburanti, per cui attenzione che, insomma, là dove gli operatori si sono fatti concorrenza a botte di offerte, il vantaggio per il consumatore finale si è visto. Allora veniamo agli interventi poi di oggi, chiare le tesi di Luca Palazzi. Tra l'altro è verissimo, i dati pubblicati oggi proprio nel corso del rapporto di Confindustria dimostrano come il 90% degli italiani ritenga mai giustificabile l'evasione e chieda la lotta all'evasione per ridurre le proprie tasse, un meccanismo che evidentemente è entrato poi nella logica dell'opinione pubblica. Si riducono le tasse solo se tu riesci a combattere l'evasione fiscale, visto il debito che abbiamo. E devo dire che anche molti di voi scrivono appunto al 349-238-6666 che il nostro PIL pro capite è probabilmente falsato dal nero, da questa evasione enorme, oltre 100 miliardi di euro all'anno si stima. Però attenzione, perché poi il nero è difficile da calcolare, non si spalma nello stesso modo in tutto il paese. Vedo che alcuni non sono d'accordo sul tema della telefonia. E va bene, sentiamo invece gli altri interventi. Pierluigi Bersani, segretario del PD, da poco ha terminato il suo intervento, lo ha raggiunto la nostra Anna Marino prima di salire sul palco. Allora, mercati, libertà di impresa, concorrenza, fisco, lavoro, per darlo il lavoro, perché oggi chi pensa che ancora il tema sia quello della flessibilità e del costo del lavoro è un marziano. Il problema di oggi è creare lavoro e tante altre cose, la scuola, l'università, le politiche industriali. Su ciascuno di questi punti noi abbiamo qualcosa da dire. Certo che se si va avanti a 30 voti di fiducia e a 50 decreti, noi stiamo chiacchierando di riforme, perché piaccia o non piaccia, in tutti i luoghi del mondo, compresa l'Italia, le riforme le ha sempre fatte il Parlamento, non l'ha fatto il famoso dialogo fra virgolette che avviene nel circuito mediatico, le ha sempre fatte il Parlamento. E se il Parlamento non fa nulla, di nulla, salvo dover votare dei decreti o delle fiducie, è molto difficile fare le riforme. Le riforme hanno un cantiere, si chiama Parlamento. Finché non attiviamo questo cantiere non ci sarà mai una riforma. In 2 anni questo cantiere è rimasto totalmente, o pressoché totalmente, inattivo. Questo è il punto, un punto, diciamo, preliminare sul quale bisogna che ci intendiamo. Così Pierluigi Bersani, che dopo dal palco si è disponibile a incontrare anche ad Arcore il Presidente del Consiglio Berlusconi, a patto che si parli di riforme concrete e si valutino sul tappeto anche le proposte del PD, che non sia appunto un fare melina. Adesso le informazioni meteo, la pubblicità, poi sentiremo anche l'intervento al microfono sempre della nostra Anna Marino di Guglielmo Epifani e altri interventi, tra cui quello di Tronchetti Provera, che sta adesso parlando dal palco assieme al sindaco di Torino Chiamparino e al presidente dell'antitrust Catricalà, moderati dal direttore di Quella della Sera Ferruccio De Bortoli. Noi ci risentiamo dopo il meteo. 349-238-6666 per gli sms. La borsa ha chiuso più 1,2%, ha recuperato Milano, quindi vicino ai massimi, più 1,3 Parigi, più 1,7 Francoforte. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa puntata di Focus Economia in diretta da Parma, dove stiamo raccontando anche gli interventi di questa prima giornata di lavori. E dopo aver sentito i punti principali toccati dal rapporto del Centro di Confindustria, dicevamo degli altri interventi che si sono susseguiti. Chiuderà i lavori oggi il ministro Tremonti, che immaginiamo tornerà anche sul tema, immaginiamo smentendolo come ha già fatto ieri, come l'ha fatto oggi il Presidente del Consiglio, l'ipotesi di una manovra correttiva da 4-5 miliardi circolata ieri su molti siti di quotidiani italiani, però Tremonti interverrà verso le 19. Dicevamo dell'intervento del segretario CGIL Guglielmo Epifani, al microfono la nostra Anna Marino ha chiesto che in questa fase non ci si limiti alla semplice difesa dei conti pubblici per tornare a crescere. Ma vorrei averne un po' più di chiarezza, perché è evidente che c'è qualche piccolo problema anche sui conti. Perché? Perché siamo andati sotto di 6 punti in 2 anni di PIL, e questo ha fatto un po' crescere tutti i parametri dei nostri conti pubblici. Il punto è che non vorrei che ci si focalizzi soltanto sulla giusta difesa del bilancio dello Stato e non si affronti la possibilità di trovare risorse per ridurre le tasse sul lavoro, sulle imprese che innovano, e dare qualche stimolo vero all'economia, perché anche questi incentivi, così come sono formulati, basta vedere la realtà delle cose, non produrrà nessun effetto. E quindi siamo l'unico paese in cui non ci sono stati veri stimoli né sui redditi né sull'occupazione e lo sviluppo, e questo si vede dai dati di una ripresa che in realtà non c'è ancora. Aggiungo però anche i problemi sull'economia reale, perché va bene parlare di legalità, come evidente, va bene parlare di riforme, ma qui bisogna proprio avere una logica di sistema paese in cui difendiamo meglio il nostro posizionamento produttivo, riprendiamo la strada di legare gli incentivi alla ricerca e all'innovazione a dei stimoli fiscali e contemporaneamente riduciamo la tassazione sui redditi da lavoro per aiutare i consumi e una condizione delle famiglie che, come i dati di ieri hanno confermato, non vanno affatto bene. Così appunto il segretario della CGIL Guglielmo Epifani prima di iniziare il suo intervento. Adesso vi facciamo ascoltare anche un pezzettino che abbiamo estrapolato dell'intervento che si è concluso poco fa del segretario del PD Bersani, questa volta l'intervento dal palco, non al microfono, della nostra Anna Marino. Certamente noi dobbiamo essere selettivi, dobbiamo privilegiare interventi che non incidono sull'indebitamento strutturale, che laddove necessario dobbiamo indicare risparmi e risorse, ma insomma qualcosa tuttavia bisognava e bisogna fare, secondo noi, di più. Cioè, noi pensiamo che nella fase di recessione più importante che abbiamo dal dopoguerra ad oggi noi possiamo ridurre gli investimenti. Non lo so, io credo che non possiamo. Dico investimenti di quelli che succedono subito, di quelli che si fanno in 6 mesi, in 1 anno. Questo è un problema molto serio che bisogna affrontare. Con quali strumenti, con quali iniziative? Ma qui si tratta, non dico mica di far tutto, si tratta di scegliere un menù, di discutere un menù di cose possibili, realizzabili, finanziabili. Noi 2 anni fa dicemmo un grande piano di piccole opere, per quel che, innanzitutto per quel che riguarda la dimensione locale, perché credo che questo non sia accettabile che i primi 2 mesi dell'anno, dati CRESM, abbiamo il 30% di cantieri in meno nella dimensione locale, credo che non sia una cosa che possa essere sensata. Con deroghe mirate al patto di stabilità, possiamo ragionare attorno a un piano sulla green economy che riguarda la vita domestica, l'edilizia, la produzione industriale, la produzione di fonti energetiche. Possiamo considerare strumenti di sostegno agli investimenti e innovazione dell'impresa, possiamo pensare a qualche driver di iniziativa pubblica, che sia la banda larga piuttosto che un piano per le bonifiche, possiamo vedere un attimo la committenza pubblica, possiamo verificare la committenza dei grandi soggetti industriali di servizio nella catena della sua fornitura, possiamo, credo che qualcosa dobbiamo fare e credo che dobbiamo anche occuparci dei consumi, perché effettivamente abbiamo visto i dati Istat anche ieri, è un livello piuttosto preoccupante. Qui c'è un tema, insomma, di controllo degli andamenti dell'inflazione impropria. È possibile che tutte le volte che appena rialza la testa a livello europeo l'inflazione noi siamo subito in testa? Così appunto Pierluigi Bersani poco fa dal palco. Vi ricordo tra l'altro che domani Radio 24 trasmetterà uno speciale dall'1 all'1:30 per ascoltare anche i passaggi principali degli interventi del Presidente Confindustria Marcio Gaglia e del Presidente del Consiglio Berlusconi. Vedo alcuni ascoltatori critici sulle liberalizzazioni. È chiaro, ma lo diceva chiaramente il direttore del Centro Studi Confindustria Luca Paolazzi, che le liberalizzazioni vanno fatte a 360 gradi, non solo in una direzione, ci mancherebbe. Alcuni settori sono più liberalizzati, altri meno, come tutta la polemica di questi giorni sul prezzo della benzina, per esempio, sta a dimostrare. Cioè, noi abbiamo costi strutturalmente più alti rispetto ad altri paesi e il petrolio lo pagano tutti allo stesso livello. Intervenuto poco fa, adesso ve lo facciamo ascoltare al microfono la nostra Anna Marino, anche il presidente di Pirelli, Marco Trocchetti Provera, sulle opportunità questa volta che la ripresa debole ma in corso può offrire. Bisogna da un lato tener conto dei problemi esistenti, esiste un problema di occupazione che va fronteggiato continuamente, alcuni strumenti sono già stati posti in essere. Esiste poi un mondo di opportunità perché i mercati stanno ripartendo in molte parti del mondo e l'Italia può giocare con le sue tecnologie un ruolo importante. Ha una base industriale solida, che è stata messa a dura prova dalla crisi, ma rimane una base industriale solida. Se riusciamo a dare una spinta verso ricerca e un indirizzo verso quelle tecnologie che rappresentano il futuro, dai materiali alle biotecnologie, alle tecnologie ecocompatibili, credo che si apra un nuovo mondo di opportunità, con dei momenti di instabilità, evidentemente che torneranno ancora, ma io credo ci sia un'opportunità per il Paese. Alla politica che cosa chiedete? Alla politica chiediamo di mettere in agenda come priorità proprio quello del rilancio dell'economia. Ci sono altri temi che sono essenziali per il futuro del Paese, di cui oggi si riprende a parlare, che riguardano le riforme istituzionali, ma tutto questo non può mettere in secondo piano i temi dell'economia, perché questa è la struttura di base su cui si basa il futuro delle nuove generazioni. Così Marco Tronchetti Provera, presidente del Pirelli. Adesso passiamo ai mercati, lo facciamo dopo le informazioni per chi è in viaggio. Una precisazione a chi ci scrive: l'euro non si è indebolito. No, attenzione, dopo l'abbassamento del voto sul debito della Grecia operato da parte di Fitch, l'euro era sceso, non tantissimo, ma era sceso quota 1,3436, adesso sta recuperando a 1,3480, così come nei confronti del franco svizzero a 1,4372. C'era stata, e se ne hanno accorte subito le agenzie di stampa, un arretramento dell'euro sul dollaro dopo l'abbassamento del voto alla Grecia, che adesso vedo però in recupero, così come le borse hanno chiuso sui livelli vicini ai massimi di giornata, più 1,2 Milano, più 1,8 Parigi, più 1,3 anche Francoforte, l'1% Londra di rialzo, mezzo punto di rialzo in America sul Dow Jones. 349-238-6666 per gli sms, ci risentiamo dopo il traffico. ...17:47, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa, ma anche il comitato strategico di Unicredit, in cui ci dovrebbe fare il punto sulla figura del cosiddetto country manager che dovrà coordinare le attività italiane nell'ambito del progetto di Alessandro Profumo Banca Unica. Il gruppo Unicredit infatti ha quasi metà delle attività all'estero, Est Europa e Germania e Austria. Non ho visto però in questo momento altre notizie. Comunque saluto e ringrazio Eleonora Micheli di Radio Colli Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Novità dal comitato strategico di Unicredit? Adesso no, si attendono novità, del resto martedì prossimo, quando appunto è convocato il consiglio di amministrazione, dovrebbero emergere novità effettive. Allora, veniamo ai titoli. Bene i titoli dell'edilizia, i tracciamenti più 3,4%, bene anche alcune banche, devo dire quasi tutte. Il Banco Popolare guadagna il 3%, la Popolare di Milano 2,70%, ancora Unicredit, visto che ne parlavamo, più 1,6%, Monte dei Paschi più 1,5%, come Intesa San Paolo. Sempre tra i bancari citiamo UBI Banca più 0,30%, di negativo c'è solo Pirelli meno 0,30%, Campari meno 0,60%, Fondiaria meno 0,90%, poco mossa Fiat più 0,26%, tra chi è andato bene segnaliamo anche Luxottica più 2,70 come Parmalat, il 2,6 lo guadagna Prismian, il 2,5 Azimut, il 2% è il rialzo di Impregilo e di Bulgari, l'1,80 quello di Finmeccanica e Saipem, l'1,70 quello di A2A e infine anche Geox guadagna l'1,40 come Eni, Buzzi Unice in più 1,2, Autogrill più 1,2 anch'essa, come Ansaldo STS e Snam Rete Gas, l'1,1% è il rialzo di Telecom Italia. Finmeccanica è arrivata a guadagnare il 2% oggi, Leonora. Esatto, Finmeccanica sotto i riflettori, si scommette sul fatto che l'azienda possa portare a casa nelle prossime settimane dei contratti importanti con aziende brasiliane. Infatti, secondo un'indiscrezione riferita proprio oggi dal Sole 24 Ore, Finmeccanica accompagnerà la delegazione governativa che sarà guidata dal Premier Silvio Berlusconi, che nelle prossime settimane si recherà in Brasile per incontrare il presidente brasiliano e soprattutto per consolidare i rapporti economico-finanziari con il paese brasiliano. Ancora per quello che riguarda i vari titoli, i talcementi, diciamo tra i migliori, anzi i migliori in assoluto, più 3,6%, dice una notizia che arriva dalla controllata francese, no? Simone Francais. Esatto, infatti Simone Francais, che è controllata per l'82% da Italcementi, potrebbe fondersi appunto con la capogruppo. Questo è quello su cui scommette il mercato e peraltro la società ha smentito proprio oggi che ci sia in ballo questa operazione. Ricordiamo l'anno scorso che Italcementi aveva portato avanti un progetto di fusione con Simone Francais che era stato bloccato dai detentori di bond della controllata francese, e a dare la speculazione è stata la notizia di oggi che Simone Francais sta riacquistando i bond in mano a investitori privati prevalentemente americani e ha riacquistato 483 milioni di dollari di bond su un totale di 500 milioni, quindi appunto il fatto che questa azienda abbia riacquistato i bond potrebbe togliere l'ostacolo che proprio l'anno scorso aveva bloccato questa integrazione tra Italcementi e Simone Francais. Ancora sui titoli, bene anche Impregilo oggi come settore costruzioni chiaramente, ma si era messa in evidenza anche Luxottica, ricordavamo Impregilo più 2%. Questa ripresa, ci chiedono gli ascoltatori, hanno ragione, dei titoli bancari a partire dalle popolari è dovuta semplicemente a una correzione dopo l'evento di ieri o c'è dell'altro? No, guarda, diciamo che è un rimbalzo generalizzato dopo la debolezza di ieri ma anche dell'altro ieri. Alcuni titoli poi sono stati acquistati con maggior convinzione, come hai detto tu il Banco Popolare che ha segnato un progresso del 3% o anche la BPM. Intanto comunque anche gli analisti iniziano a ipotizzare che le banche italiane potrebbero essere sottovalutate rispetto a quelle europee, è il comparto che magari nei prossimi mesi potrebbe diciamo, dare buone sorprese agli investitori, visto che si mette in conto un rialzo del costo del denaro a partire appunto da una mossa al rialzo della Fed, che in autunno potrebbe rivedere al rialzo appunto i tassi. E ogni volta che ovviamente il costo del denaro viene rivisto al rialzo, ne beneficiano sempre anche gli istituti di credito. Allora, veniamo a Mediaset. Oggi non ha sofferto come ieri, va detto, però era negativa in mattinata. Ha chiuso poi con un rialzo dell'1,1%. Si è capito poi un po' meglio il perché del calo significativo di ieri, Leonora? Il calo significativo è determinato dal fatto che il mercato ha reagito male alle notizie di ieri sul contenzioso che la società ha aperto con Sky per la trasmissione dei mondiali di calcio. È stato un vero e proprio contraccolpo che è continuato peraltro anche questa mattina. Le azioni erano negative in borsa, poi improvvisamente sul finale hanno iniziato a recuperare punti e hanno appunto chiuso con un balzo di oltre l'1%. Ancora tra i mentre ricordo che oggi il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di Mariella Burani Family Holding, che è la società già messa in liquidazione qualche tempo fa e a cui fa capo il pacchetto di maggioranza della Mariella Burani Fashion Group, che è attualmente in amministrazione controllata, come notizia appunto di cronaca. Bene, Saipem, ma oggi anche qui ci sono notizie che riguardano il mercato, più 1,8%. Sì, ci sono indiscrezioni secondo le quali la Saipem potrebbe portare a casa una commessa importante dalle Filippine, siglando un accordo direttamente con il governo di Manila. Una commessa importante, il mercato ci crede, ha fatto salire le quotazioni di quasi il 2%, dell'1,8%. Ancora un titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, le generali, anche qui non sono negative, però sono praticamente ferme, più 0,1% in una giornata in cui i titoli si sono mossi decisamente meglio. Qui pesano non delle notizie di mercato, ma notizie di stampa, nel caso specifico il quotidiano francese Le Figaro. Esatto, oggi il presidente attualmente ancora in carica, Antoine Bernheim, in un'intervista alle Figaro ha dichiarato che la compagnia assicurativa avrebbe bisogno di un aumento di capitale, operazione che ovviamente non viene mai vista bene dal mercato. Ricordiamo però che Bernheim è un presidente uscente e dovrebbe essere sostituito nella prossima assemblea delle generali da Cesare Geronzi, attuale presidente di Mediobanca. E tra l'altro sempre nella stessa intervista lo stesso Bernheim, senza tanti mezzi termini, ha espresso perplessità proprio sulla carica di Geronzi al capo delle generali. Sì, è un'intervista abbastanza così in punta di penna, ma anche piccata, quella di Antoine Bernheim oggi su Le Figaro. I migliori e i peggiori della giornata in assoluto, oltre ai titoli principali che abbiamo ricordato, Intech più 12,7. C'è qualcosa su Intech? Perché abbiamo letto un po' di indiscrezioni, prego. Intech è praticamente il rialzo dal 19 di marzo. Sì. Dal 19 di marzo i titoli hanno guadagnato oltre il 50%, è in quel giorno che è avvenuta la scissione parziale proporzionale con KPM, altra azienda del gruppo Intech di Manes, che è attiva nel settore dei metalli. Bene, Acegas più 7,90, Biancamano più 6,90%, SERT sulle risparmi più 6,6%, TXT più 5,81%, mentre sul fronte di chi ha più perso, Crespi ha perso il 4%, Poligrafici Printing, che ieri bene si era mossa, ha ritracciato meno 3,4%, SNAI meno 2,5%, e poi Telecom Italia Media sulle risparmi ha perso il 2,2%. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa. Buon fine settimana a tutti. E adesso diamo la linea al GR, poi torniamo in diretta per parlare degli accordi. Non c'è solo il nucleare, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, non c'è solo il nucleare al centro degli accordi oggi tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il presidente francese Sarkozy, oltre 20 accordi, il più importante sicuramente riguarda quello che coinvolge EDF, Enel e Ansaldo. 349-238-6666 per gli sms, parleremo anche degli sviluppi delle tensioni sulla Grecia dopo l'abbassamento del voto, ci risentiamo sul suo debito, ci risentiamo dopo il GR. 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia in diretta appunto da Parma, dove è iniziata oggi la due giorni del Centro Studi Confindustria. Abbiamo fatto ascoltare i vari interventi, Luca Paolazzi con il rapporto in cui si segnala un impoverimento del PIL pro capite italiano in corso dagli anni 90, ma che tutte le stime dicono proseguirà, la richiesta di riforme per rendere maggiormente competitiva la nostra economia e anche liberalizzazioni. Sulle liberalizzazioni vedo alcuni messaggi particolarmente critici, con anche un po' di offese, ma va bene così. Attenzione, non torniamo sempre però al tema dei tassisti, nessuno ha citato il tema delle riforme, delle liberalizzazioni dei taxi o di altro, si è solo detto, e questo ha dimostrato, che dove c'è maggiore concorrenza, il caso della telefonia è un caso di scuola, un caso classico, si abbassano anche i prezzi. E si parla di liberalizzazioni e concorrenza nel mercato dell'energia, noi la paghiamo un 30% più alta rispetto agli altri paesi, energia elettrica, ma non solo, pensate al tema delle liberalizzazioni nella distribuzione di carburante, spesso evocato come il motivo per questo 4-5 centesimi in più rispetto alla media europea del prezzo della benzina in Italia. E non solo, comunque insomma, il tema delle liberalizzazioni è un tema che a noi piace molto come tema, e devo dire che tutte le volte che si sono fatte in maniera corretta il beneficio per i consumatori si è visto. Adesso parliamo però di Grecia, partendo anche da quello che ha dichiarato questa mattina il Presidente del Consiglio Berlusconi dopo l'incontro con il Premier francese Sarkozy. Eh sì, perché mentre il rapporto euro-dollaro è tornato sul livello precedente la notizia dell'abbassamento del voto al debito della Grecia, l'ulteriore abbassamento che ha fatto l'agenzia di rating Fitch ha portato il voto a un BBB-, livello molto basso, lo spread però, la differenza tra quanto rende un'obbligazione greca e un'obbligazione tedesca non è aumentato, anzi si è un po' ridotto oggi, siamo sempre a livello molto alto, oltre il 4% di differenza, però non è aumentato. Detto questo, di Grecia ha parlato oggi anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, dicendo che non si può non aiutare un paese europeo. Abbiamo trattato di un tema, quello dell'aiuto e del sostegno alla Grecia, e ci siamo trovati assolutamente d'accordo del fatto che, essendo la Grecia un paese dell'euro, noi abbiamo il dovere di dare un supporto, ma abbiamo anche l'interesse di dare un supporto, perché sennò avremmo delle conseguenze molto negative sulla nostra moneta comune e sulla nostra economia. E su questo le notizie di oggi riguardano non solo l'abbassamento del voto al debito greco, ma il fatto che la stessa Fitch dica, dopo aver abbassato il voto, ormai per la Grecia l'unica opzione è ricorrere al pacchetto di aiuti varato dall'Unione Europea assieme al Fondo Monetario Internazionale. Ancora il Presidente dell'Unione Europea Van Rompuy ha detto: attenzione, prima o poi l'Unione Europea dovrà intervenire ed è pronta a intervenire assieme al Fondo Monetario Internazionale. Il Goldman Sachs, in un rapporto che è circolato, poi un rapporto confidenziale, la Banca d'Affari Americana ha detto che la Grecia ricorrerà, stima che la Grecia ricorrerà al Fondo Monetario Internazionale entro aprile. Ancora, si fanno i calcoli di quanto costerebbe ai vari paesi europei salvare la Grecia nell'opzione peggiore in assoluto, cioè il default, la bancarotta, quello che accadde all'Argentina. Perché insomma, da quello che si capisce da questi accordi, 10 miliardi li potrebbe mettere, visto che la Grecia, diciamo, ha debiti vecchi e nuovi per 30 miliardi di euro, 10 miliardi sarebbero a carico del Fondo Monetario, 20 miliardi a carico dei paesi europei, la Germania farebbe la parte del leone, costerebbe alla Germania un eventuale fallimento della Grecia 5 miliardi e mezzo. Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore, che sta seguendo fin dall'inizio la crisi greca. Buonasera. Buonasera a voi. Allora Vittorio, come sempre, non amiamo minimizzare né diciamo, gettare acqua sul fuoco, però insomma, i mercati sembrano oggi più tranquilli, l'euro è tornato a 1,3470 e anche l'euro sul franco è 1,4370, però le dichiarazioni che arrivano, cioè l'abbassamento del voto di Fitch, le prime stime che si fanno, questi rapporti interni che poi, pur dovendo essere riservati, escono, in cui si inizia a ragionare quando la Grecia ricorrerà al pacchetto di aiuti, insomma, lasciano, disegnano una situazione tutt'altro che tranquilla. Mi sembra che molti diano per scontato che la Grecia ricorrerà a questo pacchetto d'aiuti a questo punto. Sì, a questo punto c'è un, in qualche modo il mercato voleva capire che cosa nascondeva il piano e l'accordo che si è raggiunto proprio in queste ore a Bruxelles dei vice ministri delle finanze europee per determinare il tasso di interesse che sarebbe applicato nel caso in cui la Grecia dovesse chiedere aiuto. Questo era un dato molto importante ed è uscito proprio in questi momenti, secondo appunto la ricostruzione che stiamo facendo, perché il testo parla appunto di 300 punti base più 50 ulteriori rispetto ai cosiddetti SDR, cioè a questo sistema che il Fondo Monetario ha del tasso medio fra diverse valute, quindi il tasso da applicare che risulta a questo momento è del 5%. Il 5% è molto buono per la Grecia, che oggi sta andando sul mercato al 7% e accontenterebbe anche i tedeschi, che come ricorderete non volevano dare un tasso agevolato, e aiuterebbe anche i paesi che, come sapete, i paesi europei dovrebbero intervenire con prestiti bilaterali. Ecco perché il premier Berlusconi e il presidente Sarkozy hanno detto che sono d'accordo nella stessa direzione, perché in proporzione ai depositi che noi abbiamo nella banca centrale, ogni paese europeo dovrebbe appunto essere chiamato in pro quota a dare questi aiuti. Il 5% quindi dovrebbe essere un tasso ragionevolmente mediano fra tutte queste esigenze dei tedeschi e degli altri paesi che invece volevano dare un tasso più agevolato. E in effetti, come tu ricordavi, la Grecia sta pagando molto di più in questo momento la sottoscrizione del suo debito, siamo al 7%, quindi avere degli aiuti in cui, che ti costano un 5% di interesse significa comunque avere un tasso agevolato. Non è così agevolato, come tu ricordavi, da diciamo, far storcere il naso ai tedeschi, che non volevano nessuno sconto, non volevano che si creasse soprattutto il precedente. Ed lo dico anche a chi scrive: la Grecia comunque dovesse andare, non verrà aiutata dall'Europa, perché su questo c'è stato un forte contrasto, una posizione nettamente contraria della Germania. Verrà aiutata a livello bilaterale, una cosa un po' diversa, cioè non saranno soldi dell'Unione Europea, saranno soldi dei singoli paesi in base, appunto, come tu spiegavi, ai contributi. È strano, Vittorio, per concludere, che dalla Grecia non arrivi nessun comunicato, però insomma, no. Tutti ormai speculano su quando ricorrerà agli aiuti, cioè aprile, entro aprile, cioè stiamo parlando del mese in corso, eppure il governo greco continua, diciamo, a mostrare, a ostentare così una sicurezza per alcuni versi anche inquietante. In effetti il tasso del 5% è abbastanza caro, perché la Grecia ha il 7%, che è insostenibile naturalmente, il 5% comunque è abbastanza elevato, perché dovrebbe appunto andare sul mercato e nello stesso tempo avere questi prestiti. Ricordiamo che il Fondo Monetario dovrebbe intervenire almeno per un terzo, quindi i due terzi sarebbero a carico dei paesi europei, però il 5% potrebbe essere questa situazione, diciamo, che accontenta i tedeschi, che voi sapete la Merkel ha una importante elezione l'8 maggio nella Ruhr, che lì in qualche modo non vuole perdere i consensi, e quindi la Grecia ha questo elemento di disturbo, cioè se dovesse chiedere aiuto prima di questa elezione, i tassi non possono essere appunto più bassi di quanto i tedeschi, insomma, molto vicini comunque a quelli del tasso di interesse, già 5 sono 2 punti in meno, e comunque l'elemento su cui si sta puntando è che, conoscendo il dettaglio, quindi il piano c'è, adesso sappiamo anche il tasso, dovrebbe essere, come dire, i mercati dovrebbero essere più tranquilli. Ci sono voci anche, però, lo dico per completezza di informazione, di una teleconferenza notturna della Banca Centrale Europea, che in questo caso sarebbe chiamata a dare un parere non vincolante sull'accordo raggiunto dai paesi per appunto il piano di aiuto. Come vedete la situazione si appresta a un weekend abbastanza di movimento, caldo. Grazie a Vittorio D'Arolda, anche perché ci ha ricordato i dettagli di questo piano. Adesso il traffico, poi concludiamo con gli accordi invece bilaterali firmati oggi in Francia tra il presidente Sarkozy e il presidente del Consiglio Berlusconi. Risponderò anche a alcune domande per quello che riguarda le liberalizzazioni, perché, anzi, diciamo da subito, alcuni di voi criticano la reintroduzione del minimo tariffario per gli avvocati. Su questo noi, ricorderete, eravamo assolutamente d'accordo che venisse eliminato il minimo tariffario. Gli avvocati lamentano che questo li ha impoveriti. In realtà è un caso di liberalizzazione di un mercato, non si capisce perché un avvocato magari giovane con minore esperienza e con minor fama non possa praticare la tariffa che vuole. Comunque 349-238-6666 per gli sms, il traffico e poi l'ultimo tema di Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, è l'incontro di oggi tra Berlusconi e Sarkozy. Devo dare una precisazione però, ci chiedete di Bialetti. Purtroppo è vero, ha confermato oggi il gruppo Bialetti che intende trasferire la produzione italiana di Moc, Bialetti insomma è uno dei marchi più conosciuti di macchine da caffè, in un paese dell'est non meglio precisato dalle ANCI d'agenzia, però confermo che è così, l'annuncio è arrivato oggi. Ancora volete sapere perché non trasmettiamo in maniera integrale tutti gli interventi qui a Parma, perché ci sono tante altre notizie anche oggi a partire dalla Grecia e dall'incontro Berlusconi-Sarkozy. Abbiamo dato i sunti principali di quanto è uscito in queste prime due ore. Stanno ancora parlando adesso, per esempio vedo in tavola rotonda Sergio Marchionne da un lato, Guglielmo Epifani dall'altro, moderati sempre dal direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli. Dicevo, ultimo tema, gli accordi italo-francesi. Eh sì, perché la Francia, che per noi siamo i terzi esportatori in Francia, mentre dalla Francia siamo i secondi paesi, è il secondo paese da cui importiamo dopo la Germania, resta nell'interscambio commerciale tra Italia e Francia un saldo positivo, cioè esportiamo più di quello che importiamo per 2 miliardi e 700 milioni. E oggi, nella conferenza stampa congiunta tra Silvio Berlusconi e il presidente francese Nicolas Sarkozy, Berlusconi ha ricordato come siano stati siglati 20 accordi di collaborazione, accordi bilaterali. Credo che lavorare insieme in un'Europa in cui le due economie rappresentano quasi il 40% del prodotto interno lordo sia un fatto non soltanto utile, ma addirittura necessario e assolutamente produttivo. Ed è con questi intendimenti che siamo qui a congratularci con tutti i nostri ministri che hanno insieme collaborato e la cui collaborazione è arrivata a concretizzarsi in 20 accordi che credo avvicinino davvero i nostri due paesi e che rendano la loro collaborazione qualcosa di assolutamente concreto. Questo per quello che riguarda i 20 accordi generali. Non è un mistero però che l'accordo principale riguardi il nucleare, quindi l'accordo Ansaldo Energia e Areva per un protocollo d'intesa per sviluppare una partnership industriale basata inizialmente sui progetti esistenti. Cosa deve riguardare? Insomma, tutta la parte che riguarda la tecnologia, e la produzione di componenti speciali, il supporto alla realizzazione e messa in servizio delle componenti industriali, ma anche l'accordo Enel, Ansaldo Energia e EDF, che definisce le aree di potenziale cooperazione nello sviluppo e nella costruzione di almeno 4 reattori nucleari con tecnologie EPR sul territorio italiano. Enel e EDF fanno il ruolo di investitori e la responsabilità complessiva del progetto. Ansaldo Energia invece si occuperà della parte di progettazione e studio, oltre che del supporto alle attività di licenza. Mentre saluto e ringrazio per essere in collegamento con noi il corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, Attilio Geroni, buonasera. Buonasera a voi. Sentiamo anche il commento del Presidente del Consiglio Berlusconi sulla parte principale di questi accordi, quello che deve fornire l'Italia poi la tecnologia e il know-how per realizzare le centrali nucleari. In Italia l'energia viene pagata da cittadini e da imprese circa il 30% in più di quella che pagano gli altri concittadini europei e le altre imprese europee, il che ci mette in difficoltà, per esempio, per quanto riguarda la competizione con le altre imprese europee. Quindi la decisione di ricominciare col nucleare è una decisione assolutamente doverosa. Abbiamo la necessità di convincere i cittadini delle zone dove si deciderà di ipotizzare la costruzione di una centrale nucleare che queste centrali oggi sono assolutamente sicure. Parlando col Presidente Sarkozy mi ricordava che molte delle centrali francesi sono situate in vicinanza delle Alpi di confine tra noi e che quindi un eventuale ma impensabile momento di pericolo da parte di queste centrali ricadrebbe in maniera assoluta anche sulle popolazioni italiane. Così presta consiglio Berlusconi. Vedo ancora messaggi sulle liberalizzazioni. Tra l'altro oggi si è toccato un tema che riguarda le non complete liberalizzazioni in Francia del settore ferroviario. Per inciso dico che è vero che le tariffe RC auto sono aumentate e che la concorrenza nel mondo assicurativo spesso è stata oggetto di critica e anche di multe da parte dell'antitrust, ma questo non vuol dire che la concorrenza non faccia bene. Se in un settore non funziona in maniera perfetta per essere buoni e i prezzi sono quantomeno rischiosi. Allora, Tino Geroni, dicevamo il nucleare, ma anche il contenzioso sulle ferrovie, perché da quello che ho capito si è sbloccato. I francesi, che pure sono entrati nella rete ferroviaria italiana attraverso il 20% del consorzio privato italiano NTV, avevano delle resistenze a far entrare la linea Frecciarossa ad alta velocità sulla tratta Roma-Milano-Parigi e Genova-Nizza-Parigi. Nucleare e ferrovie, Attilio. Sì, è stata chiamata... Partiamo dalla ferrovia, Pax Ferroviaria, perché negli ultimi mesi c'è stata una polemica a distanza tra le ferrovie francesi SNCF e la ferrovia italiana, perché come tu dicevi l'operatore italiano NTV è partecipato al 20% delle ferrovie francesi e le ferrovie italiane non hanno trovato, nonostante sia scattato, secondo la direttiva dell'Unione Europea, sia scattata la liberalizzazione del traffico passeggeri nell'Unione Europea, le ferrovie italiane hanno trovato una serie di ostacoli, di cavilli giuridico-amministrativi per accedere al mercato del traffico treni passeggeri in Francia. Questo accordo, l'ha detto sia Sarkozy che Berlusconi, non c'è spazio per una guerra ferroviaria tra due paesi che sono complementari, che sono vicini, quindi questo è il cappello politico. Adesso poi bisognerà tradurre in pratica, con l'apertura reale del mercato francese, quello che è un impulso politico. Oggi c'è un impulso politico, bisognerà passare ai fatti concretamente. È chiaro che quando i due capi di Stato e di governo dicono che bisogna farla finita con la guerra ferroviaria, gli operatori sia i gestori della rete dovranno attrezzarsi e fare in modo che ci sia una corrispondenza di trattamento nei due mercati per i due operatori. Infatti già sul fronte appunto Frecciarossa potrebbe partire a breve appunto il servizio Roma Milano Parigi e Genova Nizza Parigi. Trenitalia è stato il primo operatore straniero a ottenere l'ok del gestore delle infrastrutture ferroviarie francesi a operare sul territorio e appunto il servizio potrebbe già partire nei prossimi mesi. 30 secondi per il nucleare, abbiamo sentito e detto. Insomma, arriva Ansaldo e poi EDF, Ansaldo ed Enel. Sì, diciamo che si compie un passo in più, si approfondisce la relazione nucleare tra Francia e Italia, perché nel febbraio 2009 ci fu il grande accordo quadro tra Enel e EDF per la costruzione delle prime quattro centrali. Adesso si entra nei dettagli e si sceglie chi parteciperà alla costruzione di queste centrali. Quindi da un lato Ansaldo Nucleare Energia collaborerà con Areva, ricordiamoci, è il progettista, il costruttore, leader mondiale in questo settore di centrali nucleari, ma Ansaldo ha anche un accordo con Enel e EDF, dunque da un lato parteciperà proprio a quella che viene definita l'isola nucleare con Areva, cioè il core business, il nocciolo duro del reattore, mentre con Enel ed EDF parteciperà a quella che viene definita l'isola convenzionale, cioè le componenti più legate ad esempio alle turbine. Quindi si fa un passo in avanti. Oltre a questo ci sono accordi di cooperazione universitaria, ci saranno degli scambi, accordi di formazione, accordi per la protezione tra le certo. associazioni pubbliche di sicurezza nucleare, quindi tutta una serie di scambi di informazioni, quindi anche di formazione, di trasferimento di know-how sì. dai centri di eccellenza universitari francesi a quelli italiani. A quelli italiani. Grazie a Tiglio. Una grande storia, ma che era stata abbandonata negli ultimi decenni. Questo ce lo ricordiamo tutti, perlomeno chi ha una certa età. Grazie a Tiglio Geroni, corrispondente sulle 24 ore da Parigi. Da Sebastiano Barisoni veramente è tutto. Un augurio di buon fine settimana a voi in ascolto. Un ringraziamento a Mauro De Cono e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.